permetto che in questo intervento, che sarà entro limiti sicuramente, almeno spero, accettabili. Guardano tutti come un cerbero, non lo sono. No, è una questione di autolimitazione. Dice Cesa che va bene che mi guardino così, allora va sì, bene. Sì, infatti va bene. Trascendentale. Mi occuperò solo della critica del giudizio, in particolare della seconda parte, cioè della critica del giudizio teleologico, vista, diciamo così, un po' dall'esterno, cioè a partire da qualche tema di filosofia della natura. Allora, la critica del giudizio è probabilmente tra le opere di Kant la più tesa e tormentata, e l'oscurità non del tutto evitabile di cui egli parla nella Forrede rende, come si sa, il suo andamento particolarmente tortuoso, difficile, soprattutto nella parte riguardante il giudizio teleologico. Ritengo comunque che le difficoltà che si riscontrano nel testo rimandino soprattutto a una serie di questioni di fatto, come ad esempio la speciale situazione disciplinare delle problematiche affrontate, non ancora facenti parte di una scienza riconosciuta come autonoma, la biologia, che come noto conquistò il suo statuto scientifico netto solo nell'Ottocento, o anche rimandano queste difficoltà alle difficoltà, ancora una volta, che poneva il confronto critico con la prova fisico-teologica dell'esistenza di Dio, che nella cultura dell'epoca aveva conquistato una sua solidità di argomentazioni che Kant sa non liquidabile in poche battute. Occorre tenere presente che intorno a questa prova, per Kant, come è stato già detto, degna del massimo rispetto, ma non per questo meno inconsistente delle altre, si erano sviluppate nella cultura del Settecento molte delle cosiddette teologie naturali, intesi qui in senso generale, che ricavavano dall'osservazione del modo in cui la natura è organizzata segni certi dell'esistenza di Dio. Elementi come l'abbondanza, la molteplicità, la varietà, la simmetria, l'ordine, l'utilità, la bellezza erano tipici di questo modo di vedere la natura attraverso il quale si scorgeva in essa la presenza di un disegno, di un piano divino. Anche naturalisti come Bonnet, Buffon, Linneo, Spallanzani consideravano possibile riconoscere nell'ordine del mondo un'idea, un piano divino che ne spiegasse la connessione di fini, la catena di creature che nella loro crescente perfezione portano fino al loro creatore. Quanto più si studiava il mondo naturale, tanto più, secondo alcuni, tale piano era riconoscibile nei particolari. E l'ordine e la molteplicità degli esseri si mostravano come prova vivente della bontà di Dio. Ma al tempo stesso alcuni, tra cui lo stesso Linneo, si rendevano ben conto che, accanto ad elementi di equilibrio, di simmetria, di abbondanza e di varietà, si potevano osservare nella natura molti tratti distruttivi o veri e propri sprechi, come nel caso della distruzione in molte specie animali di un gran numero di uova, con la conseguente diminuzione del numero di nati, di cui parla ad esempio Buffon nell'Histoire naturelle. O anche elementi tutt'altro che armonici come l'antagonismo tra le varie specie animali, la vera e propria carneficina, la guerra di tutti contro tutti di cui parla Linneo nel Specimen delle Curiositate Naturali. In seguito, verso la fine del secolo, la scoperta di nuove specie viventi, che non era facile classificare, o il problema dei mostri rendeva evidente la difficoltà di ricostruire in modo completo il preteso ordine della natura e mostrava in qualche punto la presenza inquietante del caso. L'atteggiamento culturale dell'epoca consentiva tuttavia quasi sempre di ricondurre anche questi elementi attraverso l'idea di compensazione o quella parola chiave che fu economia della natura nel più vasto ambito del disegno provvidenziale divino che rimaneva nel suo complesso indirizzato al bene anche nei casi in cui utilizzava elementi distruttivi e poco armonici. La consapevolezza di questo retroterra cui qui accenniamo solamente, ma c'è il bel libro di La Vergata che dà conto di tutto, è in Kant elevatissimo ed è possibile rilevarlo non solo negli accenni a problemi e personaggi di questo dibattito come Blumenbach o lo stesso Linneo, ma nella evidente consapevolezza della delicatezza del problema, della sua non facile soluzione all'interno di un'impostazione meccanicista, nel riconoscimento della necessità di nuovi punti di vista che ne compensino le insufficienze in questo ambito e che spieghino sul piano teorico l'affermata impossibilità di un Newton del filo d'erba. L'idea di fine della natura, Naturzweck, si precisa infatti, come si sa, a partire da una serie di distinzioni che Kant opera nei paragrafi 62-63, in cui la distingue dalla, prima della finalità soggettiva o estetica, ma anche e soprattutto dalla finalità esterna o relativa, che tende nei diversi esempi portati da Kant a correlare tra loro le diverse creature in base all'utilità o convenienza reciproche, e che ben rappresenta quel modo di pensare di molti teologi naturali che tendevano a vedere nell'ordine finalistico della natura un piano divino, e da cui subito Kant prende le distanze. L'idea kantiana di fine della natura, benché nasca da un'esigenza sistematica molto chiaramente espressa nella Einleitung dell'opera, si pone infatti su un piano diverso rispetto a queste immagini, in quanto si definisce non come la relazione finalistica, anzitutto non come la relazione finalistica tra diverse creature viventi, ma come il particolare rapporto tra le parti e il tutto all'interno di un organismo, innere Zweckmäßigkeit, per il quale è la speciale fisionomia del tutto come intero vivente a determinare le relazioni e le caratteristiche delle parti. Il tutto concepibile non più in modo analitico, ma sulle basi delle categorie dell'intelletto, ma come universale sintetico, in quanto presuppone l'idea di un fine intenzionale che solo lo rende comprensibile. Questo, si sa, è posto però sul piano riflettente da Kant e non sul piano determinante. In più punti Kant osserva tuttavia che, pur tenendo ferma la distinzione tra finalità interna e finalità esterna, la mente umana è portata a passare naturalmente dall'una all'altra, e cioè, e qui il punto, dall'idea dell'organismo come fine della natura all'idea della natura come sistema di fini, come universo in cui ogni creatura si riferisce o è utile a un'altra, e così di seguito fino a considerare l'intero mondo naturale come tenuto insieme secondo la regola generale dei fini. E Kant, nel paragrafo 67, riporta una serie di esempi di tal modo di ragionare secondo il quale, ad esempio, persino insetti fastidiosi, difficilmente inquadrabili in un'idea di utilità, come cimici e pulci, questo è l'esempio che fa, servirebbero a stimolare l'uomo alla pulizia, oppure anche il verme solitario, eccetera, altri esempi di questo genere. Naturalmente, a maggior ragione, la bellezza della natura rientra in questo quadro, si presenta come finalizzata alla nostra nobilitazione ed elevazione spirituale. E la posizione di Kant appare, nonostante qualche oscillazione, ben delineata. Se la nostra mente ne tende naturalmente a tali generalizzazioni con cui spesso e forse a ragione lavorano anatomisti e botanici, essa tuttavia per questa strada ci può portare oltre il mondo sensibile, dato che l'idea di unità della natura è rinvenibile solo sul piano del soprasensibile, concetto che nei paragrafi precedenti veniva strettamente legato all'idea di fine della natura, ma che qui viene affermato invece in un'oscillazione, o non so come altro si possa interpretare, qui viene affermato trascendere di molto tutta la nostra conoscenza teleologica della natura. Con l'idea della natura come sistema di fini, in altre parole, si va oltre la semplice considerazione teleologica, o così pare, o così a me pare, che si fonda sull'idea di Naturzweck. Nonostante che poi, in altri punti, Kant affermi che nella teleologia, in quanto si riferisce alla fisica, si parla giustamente della saggezza, dell'economia, della preveggenza, della beneficenza della natura, nonostante anche i riferimenti ai risultati dell'anatomia comparata dell'epoca, all'ipotesi perfino di una genesi da madre comune di tutte le specie animali che lui fa nel paragrafo 80, ci sembra di poter affermare che la posizione prevalente è quella che, sulla base della distinzione tra finalità interna e finalità esterna, prende le distanze dalle tendenze generalizzanti delle teologie naturali. Nella lunga appendice, che comprende ben 10 lunghi paragrafi, chiedo subito come, se si parla di un sistema di fini, occorre presupporre uno scopo finale. In quanto dirà nel paragrafo 85, senza di esso non è possibile riferire tutti gli scopi naturali ad un punto comune. L'idea di scopo finale è quindi, secondo questa definizione, indispensabile se dobbiamo parlare della natura come unità, della natura come sistema. Ma il problema allora è il seguente: è possibile derivare dalla natura questa idea di scopo finale? A questo punto Kant deve tornare ad occuparsi del modo in cui procedono gli scienziati, dell'ipotesi di cui si servono, oltre che delle osservazioni che fanno. Se il tendenza naturale della mente umana chiedersi a che scopo esistono le creature che conosciamo, le risposte possono tuttavia portare in direzioni diverse. Alcuni affermano, secondo lo stile classico delle teologie naturali, che è pensabile una catena di fini per cui il regno vegetale esiste per il regno animale che se ne nutre, il quale poi il regno animale è a sua volta cibo dei carnivori, che a loro volta diventano cibo per l'uomo, che diventerebbe così lo scopo ultimo della natura. Scopo ultimo, in questo caso, letzter Zweck e non Endzweck. E Kant mostra consapevolezza della complessità del dibattito in corso nella cultura del Settecento quando osserva che si può fare anche, niente meno che di nuovo con Linneo, il cammino opposto e più accidentato, affermando che, cito, gli erbivori esistono per moderare la vegetazione lussureggiante del regno vegetale, da cui parecchie specie sarebbero state soffocate, che i carnivori esistono per porre un freno alla voracità dei primi, e finalmente l'uomo perché, perseguitando questi ultimi diminuendoli di numero, stabilisca un certo equilibrio tra le forze produttrici e distruttrici della natura. E così l'uomo, per quanto da un certo punto di vista sia degno di essere considerato come un fine, non avrebbe da un altro se non il grado di mezzo. Fine della citazione. È evidente che il quadro qui è molto più complesso, perché l'equilibrio raggiunto passa attraverso lo squilibrio, l'eccesso, la possibilità di estinzione, la sovrappopolazione, la distruzione, passa cioè attraverso un'immagine non immediatamente armoniosa della natura, un'immagine che comprende anche la carneficina, il conflitto, la lotta, ciò che in termini teologici, e di questo è stato molto parlato, ha il suo corrispettivo nel problema del male. E non è un caso che proprio questo fosse uno dei punti di maggior difficoltà per chi, come anche e forse soprattutto Linneo, il grande classificatore svedese, credeva all'oggettiva razionalità della natura, alla verità del piano divino che in essa è possibile rintracciare. Agli occhi di scienziati di grande onestà intellettuale, oltre che capaci di innovazioni decisive come Linneo e Buffon, non potevano sfuggire questi elementi che apparentemente contraddicevano l'idea del piano provvidenziale del creatore e potevano portare pericolosamente verso un'immagine della natura come caos e distruzione. Per questo l'idea che il male relativo potesse poi essere considerato come fattore di stabilità nell'insieme era in maniera decisiva legato a un'idea di compensazione e di equilibrio che veniva raggiunto però talvolta attraverso l'elisione reciproca di spinte originariamente contrastanti. Linneo dice appunto che la natura è crudele nei particolari, massaggia nell'insieme, che la distruzione dell'uno diventa riparazione dell'altro e così anche la rapina della natura, la rapina universale, può mostrarsi come splendente rigoglio della natura. E di questi temi, di queste difficoltà, Kant è talmente consapevole che fin dalla Einleitung dell'intera opera mostra come il problema decisivo da cui l'idea di Naturzweck parte è quello della contingenza, tema che qui mi pare è stato toccato solo in maniera non sistematica, almeno è stato solo accennato. Contingenza Zufälligkeit della natura, della molteplicità ed eterogeneità delle sue forme, non immediatamente sistematizzabili sul piano determinante sotto i concetti dell'intelletto e che bisognano quindi dell'idea di Zweckmäßigkeit, di finalità, come filo conduttore riflettente della ricerca. La natura ha molte forme, alcune sono difficilmente classificabili, non esiste un universale analitico già pronto che possa ricomprenderle tutte. La natura organica è molteplice e forse inafferrabile, si esprime anche attraverso errori, come i mostri, cui Kant accenna nel paragrafo 81, e sfugge ad una razionalità, ad una causalità semplice, lineare. La sua complicazione ha bisogno di un modo di conoscerla raffinato e complesso, capace di dare ragione anche degli scarti, dei conflitti, dell'eterogeneità, anche del pure semplice caso. Di fronte a ciò, parlare di un sistema di fini come qualcosa di derivabile direttamente dalla stessa natura appare insostenibile. L'esperienza sembra infatti contraddire apertamente la ragione, dice Kant, dato che se affermiamo l'idea dell'uomo come scopo ultimo della natura, non solo ci troviamo di fronte al fatto che esso invece è considerabile come semplice mezzo, ma inoltre Rispetto a quest'ultimo, cito Kant, rispetto a quest'ultimo, considerato come una delle molte specie animali, la natura non ha fatto la minima eccezione circa le forze distruttrici e produttrici per sottoporre tutto al suo meccanismo, senza alcuno scopo. Da questo punto di vista, la natura appare a Kant sottoposta al puro semplice meccanismo ed essa, nonostante l'apparente adeguatezza della sua forma esterna, mostra in molti casi di essere stata prodotta non secondo fini razionali e benefici voluti da un creatore onnipotente, ma da forze potenti distruttivi come eruzioni vulcaniche, inondazioni, eccetera. E dato che l'uomo in questa immagine drammatica non costituisce come essere naturale alcuna eccezione, ciò prova che egli non può essere lo scopo ultimo della natura, dato che essa si presenta ben diversamente da un sistema armonico di fini. Interessante a questo punto l'osservazione kantiana, no, questa la salto, se vogliamo derivare l'idea della divinità della natura, come pretende la fisicoteologia, cito, non potremo trovare alcun rimedio contro il disordine che in molti esempi la natura presenta riguardo all'unità degli scopi e d'altra parte non potremo mai ricavare da quei principi il concetto di un'unica causa intelligente, così come la determiniamo sull'autorità della semplice esperienza. E la cruda consapevolezza della non ricavabilità dall'esperienza dell'idea di armonia ed equilibrio finalistico costituisce il presupposto che consente a Kant il passo successivo. Se ci interroghiamo sullo scopo finale della natura, cioè sul perché wozu dell'esistenza delle creature nel mondo, sui motivi ultimi di tutto ciò, noi cerchiamo evidentemente qualcosa di incondizionato, qualcosa che, dice la definizione kantiana, non richiedendo altra condizione della propria possibilità, consenta di fungere da punto di raccordo di tutti i fini parziali e anche contraddittori che si trovano in natura. Ma tale fine incondizionato e indipendente, conclude Kant, non deve essere cercato in natura. Questo, come si sa, è appunto il punto d'arrivo. Solo l'uomo come essere morale, cioè come essere libero, sciolto dall'ambito della necessità naturale, può mostrarsi non solo come scopo ultimo, ma come scopo finale e donatore di senso di tutta la creazione. L'uomo quindi non come essere causale, ma come unica creatura che ha la facoltà di porsi liberamente dei fini e che può, da questo punto di vista, riguardare e comprendere l'intera natura. In questo senso, l'uomo come scopo finale è fuori dalla natura. L'uomo come essere morale. E infatti Kant afferma che essere piano della cultura e non della natura, quello che si deve in questo caso adeguatamente pensare, la natura e non la sua felicità sulla terra o semplicemente il privilegio di essere il principale strumento dell'ordine e dell'armonia della natura esterna priva di ragione. Le affermazioni di Kant non sembrano quindi andare direttamente e automaticamente nella direzione di un'immagine della natura come armonia ed equilibrio. Dalla sua costituzione oggettiva non possiamo automaticamente risalire all'idea del creatore. E se essa non appare nemmeno come il regno dell'irrazionalità, perché in essa sono comunque riconoscibili fini parziali o condizionati, non è di qui che possiamo ricavare il senso generale della sua esistenza. È solo l'uomo come essere morale che costituisce tale senso, l'uomo come essere libero e capace di porsi dei fini. L'idea teleologica come idea che nasce da un'esigenza sistematica sembra però a questo punto venire molto limitata e indebolita nella sua capacità di estendere e organizzare la conoscenza umana, se cioè c'è bisogno di un passo ulteriore. E come invece aveva sostenuto nell'appendice della dialettica trascendentale, nonostante che a suo fondamento ci sia un principio sovrasensibile e non derivi dall'esperienza, essa, l'idea teleologica, sembra a questo punto limitata, o almeno così mi pare, a ciò che è condizionato e non attinge in essenza la sistematicità che appunto si può attingere solo attraverso l'idea di uomo morale come unico punto che unifica tutti i fini. A questo punto Kant è in possesso di tutti gli strumenti per occuparsi in maniera ravvicinata della prova fisico-teologica, ma adesso arrivo verso la conclusione, dell'esistenza di Dio per mostrarmi ancora una volta l'inconsistenza. Se la fisicoteologia è il tentativo di concludere dai fini della natura la causa suprema della natura, ormai è evidente la disomogeneità dei piani che dovrebbero essere invece posti tra loro in continuità. L'esperienza, non potendo considerare la natura come sistema, non può elevarsi al di sopra della natura stessa fino allo scopo della sua esistenza, quindi al concetto determinato dell'esistenza superiore. Cito, un esame più approfondito ci mostrerebbe che vi è a priori in noi un'idea di essere supremo che si fonda su un uso del tutto diverso dalla ragione e il pratico, il quale ci spinge a completare ed elevare la manchevole rappresentazione che una teologia fisica dà del fondamento originario degli scopi della natura fino al concetto della divinità. E ancora, un'altra citazione, ora, poiché riconosciamo l'uomo come scopo della creazione solo in quanto essere morale, abbiamo in primo luogo un motivo, almeno la condizione principale, per considerare il mondo come una totalità finalisticamente connessa o come un sistema di cause finali, ma abbiamo soprattutto un principio il quale ci permette di pensare alla natura e alle proprietà di questa causa prima come il supremo principio del regno dei fini e così di determinare il concetto. Ciò che non poteva fare la teleologia fisica, la quale non poteva produrre se non concetti indeterminati, e appunto perciò inutili tanto per l'uso teoretico che per quello pratico. La prova morale dell'esistenza di Dio è la sola quindi che consente di trovare un senso al mondo e alle sue creature, questa mi sembra il punto, un senso anche rispetto al carattere sistematico o meno della natura. Dato che la natura in quanto tale non è costituita come un compiuto sistema di fini, essa non ha in sé nessun senso o valore perché non ha uno scopo finale che solo la libera volontà dell'uomo può fornire, eccetera. Naturalmente si sa che la prova morale è valida, non è una prova oggettivamente valida dell'esistenza di Dio, ma un argomento che obbliga l'uomo se vuole pensare moralmente con conseguenza. Si tratta quindi di un argomento soggettivo sufficiente per gli esseri morali. Come si vede, qui parlavo dell'esempio di Spinoza, dell'inermità del giusto, di cui è stato già detto prima, il male morale del mondo, la non corrispondenza tra meriti e ricompense, il prevalere di passioni violente e distruttive, la grande immagine appunto dell'inermità del giusto, della sua situazione disperata, pur desiderando il bene, è per Kant, secondo noi, correlativa a quel disordine fisico, a quel caos che il cieco meccanismo non dissolve ma presuppone e che Kant deve integrare con un'idea teleologica per non cedere a un'immagine irrazionale della natura e che costituisce comunque la nostra condizione effettiva di creatura naturale del mondo, disordine che non può essere negato ed edulcorato da immagini consolatorie come quella fornita dalla teologia naturale, ma che può ricevere un senso dall'esterno a partire dalla considerazione del valore dell'azione morale dell'uomo. Concludo. La conclusione di Kant è nettissima e molto chiara alla consapevolezza di non poter confondere le due sfere della natura e della moralità e di non poter proporre la prova morale se non sul piano della fede, di una convinzione puramente soggettiva, e proprio per questa indipendenza di principio delle due sfere, egli afferma che la prova morale conserverebbe intatta tutta la sua forza anche se non trovassimo nel mondo, questo mi sembra importante, materia alcuna per una teleologia fisica. È possibile convincersi dell'esistenza di Dio anche se nel mondo non fosse visibile alcun fine razionale, anche se la materia fosse solo puro caos indeterminato. E la radicalità di queste affermazioni fanno capire quanto poco valore avessero per Kant quelle immagini idilliache di una natura immediatamente armoniosa e felicemente organizzata, che mostrerebbe immediatamente i segni della bontà del suo creatore. La grande consapevolezza kantiana dei problemi che la scienza in questo campo stava affrontando, della grande incertezza che vi regnava da quando il modello meccanicista da più parti era stato messo in crisi, gli vieta la facile via della fisicoteologia. Ciò non significa, tuttavia, ad attenuare forse l'eccessiva nettezza di queste affermazioni, ciò non significa tuttavia che a Kant appartenga una visione tragica o pessimista della natura, come si sa e come è stato detto anche su altri piani, come pure irrazionalità incomprensibile, dato che il concetto stesso di Innere Zweckmäßigkeit e tutta la prima parte dell'opera tendono ad affermare la possibilità e la necessità di una considerazione sistematica, almeno sul piano riflettente, ma tale pretesa appare tuttavia in questi ultimi paragrafi dell'opera notevolmente indebolita e delimitata, dato che l'unica unità sistematica pensabile è quella basata sull'idea di uomo come essere naturale che va oltre ogni tipo di teleologia possibile. A questo punto l'unica utilità di una teleologia come teologia fisica è quindi solo, dice Kant, quella di valere come propedeutica alla vera teologia, dato che essa può favorire con la considerazione della finalità della natura la formazione, può favorire solo la formazione di un'idea di scopo finale che certo però, la natura non può stabilire, ma di cui, sul piano teoretico, si può far sentire il bisogno. Grazie. Benissimo. Molte grazie per questo.